Terra in vista. Le Olimpiadi spiegate a mio figlio. Terra in vista, benvenuti da Federico Taddia. E quando c'è terra in vista, ovviamente al mio fianco c'è lui, il filosofo della scienza, Telmo Piovani. Ciao Telmo. Ciao Fede, eccoci. Ben ritrovato. Allora, dopo aver viaggiato un'intera estate lo scorso anno per raccontare l'Expo a mio figlio, ai più piccoli, oggi, quest'anno, giocheremo con le Olimpiadi. Un bel viaggio anche questo. È un bellissimo viaggio in giro per il mondo a scoprire tutta la scienza che c'è dietro lo sport. Il programma lo conoscete, tante informazioni, tante curiosità, tante rubriche divertenti anche che andremo a scoprire insieme, ma soprattutto una parola puntata, e questa parola sarà un po' il filo conduttore per raccontarvi le Olimpiadi dal nostro punto di vista. La parola di oggi è una parola importante, la parola mito, una parola insomma che ci fa... Sì, ci porta indietro nel tempo, ma anche assolutamente contemporanea. E ovviamente iniziamo con le parole dei bambini, con la loro interpretazione della parola mito. Questo è quello che ci hanno detto. Yuhu! La parola mito mi fa venire in mente una persona che è brava, che sa quello che deve fare e lo fa bene. Una persona che ha fatto qualcosa nella storia per cui deve essere ricordato. Un racconto! Mito è una persona che potrei soprannominare una persona ideale. Una specie di eroe, però vissuto nel passato. Una persona, come dire, fantastica. Dei racconti storici che ti fanno capire delle cose. Una persona che ha fatto un qualcosa e gli è uscito e l'ha fatta bene, molto bene. E le persone gli dicono: sei un mito, sei stato bravo. Una storia inventata da persone. Questo è il mito, secondo i più giovani, i più piccoli, e insomma ci sono andati come sempre molto vicini alla giusta definizione, vero Telmo? Bravissimi, sì, perché hanno colto i due concetti fondamentali. Sei un mito, cioè l'eroe, i miti sono storie di personaggi particolari, di eroi, e poi appunto le storie, i racconti, perché i miti sono narrazioni, delle origini soprattutto. E sono, hanno anche detto, persone... che fanno il bene, che fanno cose giuste, dei simboli, sono persone da imitare, i miti solitamente. Sì, sono i primi personaggi, se vuoi, no? Tant'è vero che quando nasce il mito nasce anche la tragedia, il teatro, è il mettere in scena dei personaggi che rappresentano, per esempio, le emozioni fondamentali, quello che è sempre arrabbiato, ma anche la fertilità, il rapporto con la terra, insomma, sono le grandi storie delle origini che hanno raccontato i fondamenti della nostra società, della nostra storia. Ecco, ma quando noi oggi diciamo sei un mito, ha lo stesso significato di quando secoli fa veniva detto nell'antica Grecia? Beh, in almeno un significato sì, perché nell'antica Grecia si diceva sei un mito anche per grandi atleti. Perché? Perché agli dei, che erano appunto i protagonisti di questi miti, avevano dedicate opere, naturalmente, omaggi di più diversi generi, ma anche gare. E le Olimpiadi fanno parte di queste storie, erano la gara più prestigiosa di tutte. Gli atleti dell'antichità facevano una specie di grande slam, come succede ancora adesso, e il cui apice erano le Olimpiadi, a Olimpia. Che erano un qualcosa di sacro, insomma, andava oltre la mera prestazione sportiva. Eh sì, perché il mito ha dentro qualcosa di vero e qualcosa di inventato, di esagerato, perché questo è tipico della sacralità, no? Perché erano sacri, perché raccontavano qualcosa che riguardava i fondamenti della vita sociale. E allora le Olimpiadi che cos'erano? Erano un modo di omaggiare Dio attraverso le opere, le gesta, le competizioni, le gare di uomini straordinari, che dovevano essere il più possibile buoni e bravi per imitare Dio. E quindi quando avveniva questo evento aveva qualcosa di religioso, che per noi oggi sembra strano, però pensa che era talmente forte questo che quando c'erano le Olimpiadi si era addirittura deciso di fare la tregua sacra, cioè per un mese prima dell'inizio, per un mese dopo la fine, le città greche non potevano farsi la guerra, nessun esercito poteva entrare dentro l'Elide, che era la provincia dove c'era Olimpia, e chi sgarrava era fuori da quell'Olimpiade. È capitato a Sparta, per esempio, che era sempre molto guerriera, una volta tradito e non è stata ammessa alle Olimpiadi. Le Olimpiadi sono anche una storia di tantissime storie. Alcune di queste storie ve le racconteremo qui in studio durante Terra in Vista, anche e soprattutto attraverso le nostre rubriche, la prima delle quali è Non batter la fiaccola, che mi piace molto già dal titolo, insomma, perché cioè, la fiaccola è l'esempio delle Olimpiadi, e quindi vi racconteremo un po' di aneddoti, perché veramente ci sono tantissime curiosità che così contornano queste 31 edizioni delle Olimpiadi, e quindi siamo andati proprio a sfogliare libri di storia per cercare alcuni degli avvenimenti più bizzarri, più curiosi e più divertenti. Adesso quindi ci fermiamo, Non batter la fiaccola, Il traffico, poi ancora qua con Terra in Vista, Le Olimpiadi spiegate a mio figlio. Non batter la fiaccola, curiosità a 5 cerchi. Ognuno corre a modo suo. Alle Olimpiadi del 1960, che si disputano a Roma, l'etiope Abebe Bikila vince la maratona correndo a piedi nudi per 2 ore, 15 primi e 16 secondi. Nel 1996, alle Olimpiadi di Atlanta, 6 atleti delle isole Camore stanno per correre la mezzo fondo con dei sandaletti di gomma, non avendo sufficienti fondi per l'acquisto di scarpe da corsa. Ma un volontario ha trovato loro all'ultimo momento 6 paia di scarpe chiodate. In quella stessa occasione, Michael Johnson ha consolidato il suo status di grande campione olimpico con una indimenticabile performance. Il suo soprannome? L'uomo dalle scarpe d'oro, per via delle sue originalissime scarpe personalizzate che, leggenda narra, non possono essere usate per più di 3 volte consecutive. L'atleta ceco Emil Zatopek, invece, uno dei migliori fondisti di sempre, preferiva allenarsi con pesanti scarponi da lavoro anziché con quelle tecniche da corsa. Terra in Vista. Terra in Vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio, ma il cuore di Terra in Vista sono le domande dei più piccoli a cui rispondono i più grandi. Partiamo quindi con la prima domanda di oggi. Yuhu! Che cos'è l'Olimpo? Che sono le domande più semplici, quelle in grado di spiazzare. Si parla di Olimpiadi, si parla di mito, e appunto, che cos'è l'Olimpo? Per rispondere abbiamo convocato un grande per davvero, è uno degli scrittori per ragazzi e non solo, più amati in Italia. Diamo il benvenuto a Roberto Piumini. Ciao Roberto! Buongiorno. Esperto anche di eroi dell'Olimpo, insomma, sono stati al centro di tuoi scritti, hai vinto anche il premio Soligato nel 2014 con il libro Dei ed eroi dell'Olimpo. Che cos'è l'Olimpo? Riusciamo a raccontarlo, sì, ai nostri ascoltatori? L'Olimpo è innanzitutto un monte poco più alto di 1900 metri, però è il più alto che c'è in Grecia. E per di più ha la cima sempre nascosta dalle nuvole, perché raccoglie l'umidità del mare Egeo, che non è molto lontano. Siccome era un posto alto e misterioso, i greci antichi pensarono che lassù ci fossero degli esseri non umani chiamati dei. Tutti i popoli antichi in tutto il mondo hanno immaginato i loro dei, perché agli uomini non piace essere soli sotto il sole e le stelle, agli uomini piace avere dei protettori. Sì. Gli abitanti dell'Olimpo erano personaggi molto potenti che, non avendo in realtà molto da fare lassù nella loro nuvola, sempre appiccicata alla cima del monte, si occupavano degli uomini e delle loro vicende. Scendevano spessissimo sulla terra, più o meno travestiti, a parlare, promettere, ammonire, minacciare, premiare, punire. Talvolta qualcuno o qualcuna di loro, perché gli dei erano maschili e femminili, si accoppiava con un uomo o una donna, e così nascevano persone che erano metà umane e metà divine. Siccome quegli amori erano segreti, accadeva spesso che i potenti della terra, i re, gli imperatori, i comandanti militari, mettevano in giro la voce di essere figli di un dio o di una dea, una vanitosa abitudine rimasta anche oggi, quando qualcuno ricco, potente o bello viene chiamato, si fa chiamare divo o diva. Insomma, la discesa degli dei sulla terra era vantaggiosa non soltanto per loro, che si annoiavano di meno, ma anche per gli uomini, che avevano in quel modo molte storie interessanti da raccontare. Gli dei erano una specie di grandi maschere, burattini per il teatro degli uomini. erano dei su misura per gli uomini e avevano dunque, oltre a vari poteri e virtù, anche i difetti umani: erano violenti, invidiosi, vanitosi, gelosi, vendicativi. Zeus, il padre degli dei, stava gran parte del tempo seduto sull'Olimpo a scagliare fulmini sul mondo come fossero freccette. Okay. E scendeva ogni tanto sulla terra a innamorarsi di qualche ragazza. Sua moglie, la dea Era, era molto gelosa. Numerose storie antiche raccontavano le sue vendette contro le povere donne terrene di cui Zeus si invaghiva. Apollo invece era il dio del sole, Atena la dea della sapienza, Ares della guerra, Artemide della caccia, Afrodite della bellezza, Poseidone del mare, Efesto del fuoco del lavoro e così via. Ogni attività degli uomini aveva il suo dio protettore. E c'era anche una schiera di personaggi metà divini, come le ninfe, le muse, le parche, che si occupavano di altri aspetti del mondo, diverse arti, le foreste, i laghi, i fiumi, le grotte, le erbe. C'era in verità molto traffico tra l'Olimpo e il mondo terreno, come se gli dei avessero una specie di nostalgia della terra da cui gli uomini li avevano staccati, mettendoli sull'Olimpo. Quando i romani conquistarono il mondo greco, gli dei greci si trasformarono in dei romani e cambiarono nome. Zeus divenne Giove, Era divenne Giunone, Atena divenne Minerva, Ares divenne Marte, Artemide Diana, Efesto divenne Vulcano e così via. Roberto, qui Telmo, volevo chiederti, ma gli dei quindi si facevano anche la guerra, no? La guerra, certo, di Troia, una guerra per guerra, procura, ma loro potremmo dire. Combattevano per interposte popolazioni, prendevano parte, facevano, si schieravano chi da una parte e chi dall'altra, o chi faceva i passaggi di qua e di là, lottavano attraverso le inimicizie umane. Però oppure, dicevamo oppure... prima che c'è un'eccezione, perché quando invece c'erano le Olimpiadi non si combatteva, o almeno questa era la regola, no? Sì, però le Olimpiadi li facevano gli uomini. Sì, quando c'erano le Olimpiadi tutto andava in uno spettacolo, lo sport, che non era uno sport, che non era un'attività, come dire, separata dalle altre, dall'arte. Quando c'erano le Olimpiadi c'erano le gare, ma si danzava, si cantava, si facevano pranzi e si facevano cerimonie religiose. Erano feste veramente grandi e complete, come quelle che un po' ci siamo dimenticati di fare noi, dividendo sempre le cose in piccole situazioni, in piccole manifestazioni diverse una dall'altra, mai completamente giocose e gioiose. Roberto, ci sei stato sull'Olimpo tu? Sono stato sotto l'Olimpo in un viaggio in pullman che mi ricordo durò 5, 6, 7 ore ancora tantissimi anni fa, in trasferimento da una città sulla costa in basso che si chiama Volos a una città sulla costa in alto che si chiama Salonicco. L'autista disse delle cose, qualcuno che capiva il greco le tradusse, e c'era dietro noi, alle nostre spalle, c'era un grosso montagnone, in basso bruciacchiato, in alto più verde, e anche le piccole nuvole che stavano sulle rocce in cima, e quello era l'Olimpo, l'ho visto solo da lì. Ecco, e con questa immagine ti salutiamo, grazie davvero, grazie a Roberto Piumini per aver partecipato con noi a Terra in Vista alle Olimpiadi, spiegata a mio figlio. Ciao Roberto! Ciao! Arrivederci! Non batter la fiaccola, curiosità a 5 cerchi. Chi lo ha detto che la carriera di un atleta finisce presto? Siamo a Monaco nel 1972. Hilda Lorna Johnston partecipa alle Olimpiadi nella specialità equestre e in nome della Gran Bretagna. Qual è la sua particolarità? Hilda Lorna Johnston è del 1902, perciò gareggia a Monaco 3 giorni dopo aver compiuto 70 anni. Quando lo fa, nel frattempo, è diventata madre e nonna e a Monaco, nel 1972, sta per diventare bisnonna. Arriverà 12ª in quella competizione, ma prima della squadra britannica. È in assoluto la donna più anziana ad aver partecipato ad un'Olimpiade. Non è battere la fiaccola le nostre curiosità olimpiche, poi ci sono invece le storie di Telmo Pievani in questa puntata dedicata al mito. Telmo, c'è anche un mito moderno legato agli Olimpiadi. Eh sì, perché le Olimpiadi sono risorte dopo 15 secoli per opera di un uomo strano, particolare, che tutti conoscono, si chiama Pierre de Coubertin, anche se spesso è associato a lui l'idea soltanto che abbia detto l'importante non è vincere ma partecipare. In realtà lui era un nobile parigino, era un pedagogista, era nato nel 1863, quindi siamo nell'ultima parte dell'Ottocento, ed era appassionatissimo dei college inglesi, dei campus anglosassoni, dove tu appena entri la prima cosa che ti fanno vedere sono le imprese sportive dei ragazzi, non tanto le imprese culturali, quindi la squadra di rugby e così via. Lui rimane sconvolto da piccolo quando i francesi vengono sconfitti sonoramente dai prussiani a Sedan nel 1870 e si fa l'idea che la responsabilità di questa sconfitta sia nel fatto che i francesi non fanno abbastanza sport, cioè che non sono temprati da un'attività agonistica e sportiva. E poi succede un'altra cosa, con contingenze della storia: alla metà degli anni 70 dell'Ottocento, nel Peloponneso, in Grecia, riscoprono Olimpia, cioè si rendono conto che Olimpia è esistita veramente, vicino nella Elide, che davvero era un centro religioso. Scoprono i templi, scoprono il recinto sacro, scoprono lo stadio, insomma è un momento straordinario, sono gli archeologi tedeschi che la tirano fuori, e a metà degli anni 80 dell'Ottocento si sa che Olimpia esiste veramente. Allora De Coubertin si lascia, come dire, prendere da questa idea affascinante. Nel 94 e poi due anni dopo fonda il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, a Parigi, e condivide con molti altri appassionati di questi festival sportivi l'idea di riprendere in mano le Olimpiadi. Perché non rifacciamo le Olimpiadi come venivano fatte 1500 anni fa? Decidono di farle ovviamente ad Atene, cioè in Grecia, e le prime sono nel 1896, con tutte le particolarità dei gusti di De Coubertin. Per esempio, lui inventa il pentathlon, quindi un mix di discipline diverse, che è una disciplina militare, cioè una preparazione militare. Il vero soldato deve imparare a tirare di scherma, a fare equitazione, a correre, a nuotare, e quindi nasce il pentathlon. Lui era appassionatissimo di discipline di tiro a volo, tiro a piattello, così ancora adesso ci sono un sacco di medaglie, di titoli dati per le discipline di tiro alle Olimpiadi. E poi diventa famoso, naturalmente, diciamo prima, per questa frase: l'importante è partecipare, che è molto strana, perché per i greci non era affatto così. Per i greci l'importante era vincere, cioè i greci inventano l'agonismo, no? L'agone, cioè la competizione, loro non ci tenevano tantissimo a vincere. Però anche qua cosa succede? In una delle prime Olimpiadi, a cui De Coubertin partecipava come responsabile, come ideatore, nel 1908 a Londra, succede che le nazioni cominciano a litigare un po' troppo tra di loro. In particolare erano molto nemici gli americani, gli statunitensi e gli inglesi, che si accusavano reciprocamente di aver barato sul tiro alla fune e cose del genere. E allora un vescovo anglicano, in un discorso, dice: però ragazzi, tranquilli, come dice San Paolo nelle lettere ai Corinzi, ci sono le gare, tutti partecipano, uno solo vince purtroppo, però tutti si godono la gara, quindi cioè vincerà uno solo, però godetevi comunque la gara di per sé. De Coubertin prende a prestito questa frase, dice: sì, perché l'importante prima di tutto è partecipare, poi ci sarà qualcuno che vince, però il piacere di per sé è essere partecipi della gara. E qui nasce questo stereotipo che poi adesso tutti citano, l'idea che è l'esserci già è la gioia di questi giochi, che ricordiamo, per De Coubertin devono essere per dilettanti e devono essere un momento universale, no? L'idea dello sport come linguaggio universale. Pensa che lui muore nel 37 e fa in tempo a vedere, con un certo dispiacere, le Olimpiadi di Berlino del 36 fatte da Hitler, e dirà che gli sono piaciute molto sul piano estetico, per quello che ha visto, per la coreografia, ma gli sono dispiaciute tantissimo per la strumentalizzazione politica che i nazisti fecero delle Olimpiadi. Lui muore e chiede che il suo cuore venga sepolto a Olimpia. Adesso De Coubertin è sepolto a Losanna, ma il suo cuore è in un'urna proprio dentro il sito di Olimpia. E con il cuore di De Coubertin ci fermiamo, è il momento della pubblicità, poi ancora qua con Terra in Vista. Carlo Genta, tu cosa ti prendi, Francia o Portogallo? Io mi prendo la Francia, che gioca in casa per quest'ultimo atto degli europei, che racconteremo attraverso i microfoni di Radio 24 domenica sera con te, Giovanni Capuano. Chi ti prende a proposito? Io mi prendo il Portogallo, è banale dire la Francia. Ogni tanto devono vincere anche gli sfavoriti. Dalle 21, domenica sera su Radio 24, ovviamente con Pierluigi Pardo, tutti convocati. Vi aspettiamo. Terra in Vista. Terra in Vista, le Olimpiadi, spiegata a mio figlio Telmo Piovani e Federico Taddia, e soprattutto le domande dei bambini. Questa è la seconda domanda, il secondo quesito a cui diamo risposta oggi. Yuhu! Quali sono state le prime gare? Certo, perché le Olimpiadi hanno un inizio e quindi c'era sicuramente un programma molto particolare in quelle prime Olimpiadi, e la risposta la chiediamo a un'antropologa, autrice del libro L'importante è vincere, da Olimpia Rio de Janeiro, scritto per Feltrinelli insieme a Ettore Miraglia. Diamo il benvenuto ad Eva Cantarella. Benvenuta. Grazie. Eva. Grazie. Benvenuta. Allora, queste prime gare, quali erano? Beh, diciamo che per qualche anno c'è stata una sola gara. Le Olimpiadi nascono, c'è una data, naturalmente non è una data precisa, ma si dice che siano nate nel 776 avanti Cristo. Fino al 24 più o meno, per alcuni decenni, c'è stata una sola gara, che era la corsa di velocità nello stadio. Però voglio rispondere a bambino che ha fatto la domanda, voglio spiegare che quello che oggi chiamiamo lo stadio, ecco, prende il nome dalla lunghezza, un rettilineo di 192 metri per l'esattezza, in altre, non a Olimpia, erano un po' diverse, ma insomma è attorno ai 200 metri, sulle quali si correva la prima gara di corsa. Quindi oggi noi chiamiamo stadio quello stadio, ma lo stadio era una lunghezza. Ed è interessante, queste corse, hanno dimenticato di dirlo prima, fin dall'inizio c'è la corsa per adulti e la corsa per ragazzi. Naturalmente la corsa per ragazzi era un po', era, la lunghezza era leggermente minore a seconda dei casi. Certo. Poi c'è la corsa lunga, anche questa per adulti e per ragazzi. Questa era, andava da 1500, 1400, 1500 fino a 4800 metri. E poi si affiancano altre corse, perché c'è la corsa in armi, con cui il corridore addirittura indossava l'elmo e gli schinieri. Poi si affiancano altre gare, c'è la lotta per esempio, sempre per adulti e per ragazzi, e quella per adulti naturalmente era molto più violenta, e la lotta terminava solo quando noi oggi diremmo che uno dei due contendenti veniva messo tre volte al tappeto. Ah, ok, quindi insomma c'era un regolamento. Quindi dopo le gare di corsa, diciamo, è stata la lotta. Nascono sì la lotta e poi c'è anche il pugilato. Ah, sì. Ma chi vinceva, che premi aveva, riceveva? Ah, beh, i premi in un primo momento erano solamente simbolici, erano le famose corone, no? Una corona di olivo, seconda. Olimpia è naturalmente la gara più importante, ma c'erano altre gare panelleniche, voglio dire, alle quali partecipavano tutti i greci, che venivano da tutte le diverse città poleis greche. Il premio comunque era sempre simbolico, era una corona, era l'onore, era la gloria. Quindi poi si correva per la gloria, però era molto ambita, no? C'era molto agonismo. Naturalmente, e poi c'era moltissimo agonismo, sì, moltissimo agonismo. E poi c'è anche il pugilato, che si affianca, è interessante perché avevano anche loro delle fasce di cuoio, ma a differenza dei guantoni di oggi che servono ad attutire i colpi, quelle servivano a renderli ancora più duri. Ah. Sì, sì. E stavo pensando che non c'era ovviamente la maratona, vero? Beh, la maratona non c'era, perché anzi una delle cose che mi fa sempre ridere quando ci penso è che se un greco di allora si trovasse a Rio sarebbe esterrefatto, perché maratona per loro era una grande battaglia, la grande battaglia del 490 vinta contro i persiani. Uh-huh. E quindi non capirebbero assolutamente perché si chiama maratona una gara, ma ci sono tante differenze. Forse la più grossa è che la prima è che le Olimpiadi, come tutte le gare panelleniche atletiche, erano un fatto religioso, quindi era tutto, iniziavano con processione, con sacrifici agli dèi. Tutto questo naturalmente oggi non c'è più. Mm-hmm. Ci sono tante cose, molte cose diverse. Eva, ma preferisce le Olimpiadi moderne o avrebbe voluto dare un'occhiata a quelle Olimpiadi antiche? Ma io per mestiere avrei voluto tanto dare un'occhiata a quelle antiche. Ma non avresti potuto, giusto? Le donne non potevano neanche assistere. Ben detto, bravo. Non avrei potuto, però forse avrei potuto fare come qualche signora dell'epoca che cercava di imbrogliare, si infilava. C'era stata una famosa che aveva allenato il figlio a una gara e si nasconde, si veste da uomo, riesce a intrufolarsi, e quando il figlio vince naturalmente lei si tradisce. È uno scandalo tremendo, insomma. Forse avrei tentato come lei di entrare lo stesso. Grazie davvero, Eva Cantarella. Ricordiamo, L'importante è vincere, da Olimpia a Rio de Janeiro, ma ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate di Terra in Vista. Grazie ancora. Grazie a voi. Non batter la fiaccola. Curiosità a 5 cerchi. Noi italiani dobbiamo sempre farci riconoscere. Mosca, Olimpiadi 1980. Il team italiano di tiro a volo atterra nella capitale russa e si sottopone ai controlli appena arrivato al villaggio olimpico come di routine. Un cane, addestrato a fiutare droga e armi, si impunta verso uno dei nostri atleti, Romano Garagnani, specialista di tiro al piattello. Il cane non smette di abbaiare di fronte all'incredulità di Garagnani, che qualcuno abbia voluto boicottarlo introducendo droga nel suo bagaglio. I poliziotti si infilano i guanti, aprono la valigia e fanno l'amara, per così dire, scoperta. Non si tratta di droga, bensì di un intero, enorme prosciutto crudo che l'atleta Emiliano aveva portato con sé. E queste sono le curiosità di non batter la fiaccola, ma torniamo invece ai racconti di Telmo Pievani e torniamo forse a parlare di donne e Olimpiadi, vero? Eh sì, perché questa è una bella storia. Adesso diceva Eva Cantarella giustamente che non potevano nemmeno assistere, tantomeno partecipare. Pensa che anche De Coubertin, noto per l'idea che nello sport devono partecipare tutti, indipendentemente dalla cultura e anche dal ceto, perché De Coubertin diceva che anche i poveri dovevano imparare a fare sport, però sulle donne aveva dei problemi, diceva che non erano adatte allo sport, ha remato conto per un po', ma poi ha dovuto rassegnarsi perché già dalle Olimpiadi, le seconde, quelle di Parigi del 1900, alcune donne si intrufolano e cominciano a partecipare, soprattutto alla vela, al tennis, al pattinaggio naturalmente, però bisogna aspettare, pensa, ad Anversa 1920, quindi dopo la prima guerra mondiale, per avere davvero in modo ufficiale le donne alle Olimpiadi. Nel 2012 a Londra, le ultime Olimpiadi, hanno aggiunto anche il pugilato femminile, quindi tutte le discipline maschili hanno anche un equivalente femminile e tutte le nazioni partecipanti, comprese quelle di paesi musulmani, hanno avuto delle donne dentro la squadra, anche l'Arabia Saudita, il Brunei, il Qatar per la prima volta. Quindi De Coubertin si rifaceva al modello greco, ma poi abbiamo dovuto rassegnarci. In Grecia invece no, sono stati molto rigidi. Platone diceva lo sport è per maschi e addirittura gli grandi atleti in Grecia devono rispettare l'astinenza sessuale per un sacco di mesi prima delle gare. Prima Eva diceva che qualche volta questa Ferenice, appunto la mamma di un pugile, si traveste, va dentro e poi nello scavalcare la staccionata per andare a festeggiare, la veste le si impiglia e tutti scoprono che è una donna. E pensa che da quell'evento lì si è deciso che tutti gli atleti e tutti gli allenatori a Olimpia dovevano essere nudi, ecco, completamente nudi. Risolto qualsiasi per essere sicuri ambiguità. Che fossero maschi. Grazie a te, ma adesso è il momento di conoscere altri miti e sono i miti nel mondo animale. Animaliadi, record bestiali a 5 cerchi. È il momento delle animaliadi, che sono Olimpiadi tra gli animali. Abbiamo deciso di andare a disegnare in ogni puntata un podio particolare legato a una singola disciplina e lo facciamo insieme a Caterina Spiezio, che è responsabile del settore ricerca e conservazione del parco Natura Viva di Pastrengo. Siamo in provincia di Verona, il sito è parconaturaviva.it. Ciao Caterina. Buongiorno, buongiorno. Ciao Caterina, benvenuta. Grazie. Allora Caterina, insieme a te andremo ad assegnare 3 medaglie, il bronzo, l'argento e l'oro in ogni puntata per una particolare disciplina. Da cosa partiamo? Ma potremmo partire dagli animali più veloci, giusto? Sì. Perché così almeno iniziamo con questa disciplina che forse è anche un po' la più semplice. E tra gli animali più veloci la medaglia di bronzo arriva a questa antilocapra americana. Tra l'altro l'unica del proprio genere ad essere presente tuttora, sì. E può correre fino a 90 km all'ora e questo è importantissimo perché le consente di vincere l'inseguimento dei coyote e linci, che a quel punto avrebbero la meglio se non fosse in grado di correre così velocemente. E in più ha un altro primato importante, sempre questa antilocapra, che non solo è capace di correre velocemente per un po' di tempo, ma copre molte distanze, per cui per chilometri e chilometri a metà della velocità, ma riesce a correre per molto tempo. Fantastica. È flessibile, quindi è il predatore, figurati, si stanca subito, non c'è storia. Deve fare la staffetta il predatore. Esatto. E medaglia d'argento invece, a chi la diamo? E la medaglia d'argento la diamo invece ad un predatore, in questo caso è il felino, è il ghepardo, che vive in Africa, quindi in un'altra area rispetto a dove vive l'antilocapra americana. La velocità media è intorno ai 100 km, raggiunge anche il suo record che sono i 112 km orari e la caratteristica è che però sprinter, quindi fa un'accelerata e poi dopo, fortunatamente, sempre anche in questo caso, antilopi che sono le sue prede, si stanca facilmente. Quindi gli antilopi, molti dei suoi attacchi, diciamo, comunque non vanno a buon fine proprio perché accelera fortissimo e poi non riesce a stare dietro alla preda che invece corre abbastanza velocemente. Cioè sfiora il limite in autostrada. Se l'autovelox fa... Esatto. Però mi aspettavo una medaglia d'oro per il ghepardo, quindi c'è la suspense sull'oro, mi aspettavo vincesse il ghepardo. Invece no, l'oro a chi lo diamo? E invece no, perché l'oro va ad un uccello, siamo con un falco pellegrino che normalmente raggiunge la velocità dei 100-110 km/h, quindi nella sua, diciamo, velocità normale è simile alla velocità che raggiunge il ghepardo, ma quando va in picchiata raggiunge e supera i 300 km/h, siamo intorno ai 320 km/h quando si lancia in picchiata per prendere poi e catturare la preda. Deve mettere il casco, credo. Perché... Queste sono le animaliadi. Ringraziamo Caterina Spiezio. Tutto ciò lo ritrovate sul nostro sito radio24.it per conoscere invece le attività del Parco Natura Viva, parconaturaviva.it. Ciao Caterina, alla prossima puntata. Ciao. Grazie, ciao. Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con Terra in Vista. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Terra in Vista. Eccoci qua ancora con Terra in Vista ed è il momento della terza domanda di questa puntata dedicata al mito. Yuhu! Perché la maratona è la gara più famosa? In effetti la maratona è la gara simbolo delle Olimpiadi e per capire perché è la più famosa abbiamo... invitato, convocato un ospite che la maratona la conosce molto molto bene. Perché? Perché lui ha proprio vinto la medaglia d'oro alla maratona di Atene il 29 agosto del 2004. Diamo il benvenuto a Stefano Baldini. Ciao Stefano. Ciao. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori, a voi. Allora Stefano, partiamo proprio da lì. Perché la maratona è considerata la gara più famosa? Ma guarda, da lì... Olimpiadi moderne, quelle del 1896, la maratona è la gara che conclude i giochi e che quindi è un po' il simbolo anche della cerimonia di chiusura, soprattutto da quando, da almeno tre edizioni dei giochi olimpici, ha la premiazione inserita all'interno della cerimonia di chiusura. Perché è tanto famosa? Perché racchiude in sé la leggenda della battaglia di Maratona, di Filippide che corre da Maratona ad Atene per comunicare, insomma, la vittoria degli ateniesi sui persiani, e perché quel percorso da Maratona ad Atene, da mare a mare, con all'interno un sacco di colline, insomma, è un po' il mito della fatica che l'uomo riesce a sconfiggere per arrivare a comunicare la notizia della vittoria. Stefano, io ho un ricordo incredibile di te che entri allo Stadio Olimpico ad Atene, ma cioè, tu la stavi facendo proprio nel luogo in cui è nata la leggenda e mi sono sempre chiesto, ma negli ultimi chilometri avevi ancora modo di pensare appunto che lo stavi facendo e stava succedendo dove la maratona è nata? Ma guarda, alle Olimpiadi per un atleta e per un maratoneta rivestono un'importanza particolare, cioè non c'è un giorno di quell'anno nel quale tu non possa pensare almeno per un secondo a cosa stai preparando e a quella maratona. Pensa nel 2004 sul percorso storico, con l'arrivo dentro allo stadio Panathinaico, quello dei primi giochi moderni, uno di quei monumenti che ti fanno vedere quando da Atene vai a fare i giri turistici. Beh, effettivamente quegli ultimi 4 chilometri nei quali sono rimasto da solo, quegli ultimi 11 minuti sono stati un po' più emozionanti del solito sicuramente. E ti passa un po' davanti il film della tua vita, poi era l'imbrunire, e questo entrare nello stadio che è di marmo bianco, illuminato a giorno, con qualche decina di migliaia di persone, beh, chiaramente è stato uno schiaffo che mi ha riportato alla realtà dopo tanta concentrazione. Dove la tieni oggi la medaglia? La medaglia è custodita in una cassetta di sicurezza di una banca, ogni tanto la tiro fuori perché ci sono delle occasioni... particolari, che ne so, i 100 anni del CONI, piuttosto che qualche altro conterraneo che ha vinto una medaglia d'oro olimpica, mi viene in mente Giuliano Razzoli che ha vinto lo slalom alle Olimpiadi di Vancouver 2010, però rimane lì e sono un po' più abituato a guardare avanti rispetto che a voltarmi indietro, e questo è un po' anche il motivo per il quale sono stato atleta, ecco, c'è sempre una sfida nuova da affrontare e una scommessa da vincere. Stefano, ti faccio un'ultima domanda pensando ai nostri giovani ascoltatori. Tu attualmente sei direttore tecnico del settore giovanile della Federazione Italiana di Atletica Leggera. C'è un'età in cui poter correre la propria prima maratona? Sì, c'è un'età, diciamo la maggiore età. Ecco, anche io ho cominciato con le distanze più brevi, quelle del mezzo fondo, le gare in pista. Pensa che le mie prime Olimpiadi, quelle di Atlanta 96, le ho fatte all'interno dello stadio, correndo i 5.000 metri e i 10.000 metri. Poi, ovviamente, allungare è da una parte un po' naturale, e dall'altra assecondare quelle che sono le tue capacità e attitudini. E, pensa che il campione del mondo attuale, che ha vinto lo scorso anno il titolo a Pechino, ha 19 anni, e quindi insomma, sebbene in Africa i ragazzi maturano un po' più velocemente dal punto di vista fisico e fisiologico, i 20 anni sono quelli giusti per poter cominciare a pensare a una maratona. Grazie davvero Stefano Baldini, buone Olimpiadi, insomma per un atleta credo che le Olimpiadi siano sempre un grande avvenimento, anche appunto se da spettatore, con occhio da tecnico, ma spettatore. Grazie davvero Stefano, ciao! A presto! A voi, a presto! E adesso è arrivato il momento della scienza a 5 cerchi! Scienziati, esperimenti a 5 cerchi. Eh sì, perché c'è tanta scienza dentro le Olimpiadi, e dove c'è scienza c'è Andrea Vico, il nostro divulgatore scientifico dell'associazione ToScience, ToScience.it, il sito per conoscere tutte le attività proposte. Ciao Andrea! Ciao a tutti, buongiorno Telmo! Ciao! Allora, sfrutteremo le Olimpiadi per dare una ripassatina di fisica, di chimica, di biologia, insomma di tanti rami della scienza. Da dove partiamo oggi? Beh, parliamo di tecnologia della fiamma olimpica. Certo, perché non si deve mai spegnere questa fiaccola, giusto? Esatto, no, è un problema costruirla, perché uno, non si deve spegnere, non ci deve essere un colpo di vento, e poi ci possono essere anche dei gesti, come qualche giorno fa, di qualcuno che tenta di spegnerla buttandogli sopra una secchiata d'acqua per protesta, per esibizionismo, eccetera, eccetera. E poi devono essere portabili, perché si deve correre, la tradizione così vuole, poi magari qualcuno cammina lo stesso, per cui devono essere anche oggetti che possono essere leggeri e comodi, contenere il combustibile all'interno, e ormai tradizione da parecchie edizioni delle Olimpiadi che ci sia qualche designer famoso che la disegna cercando sempre un qualche effetto speciale, e quindi quella del Brasile di quest'anno, per esempio, quando si accende è come se si aprisse, avesse un design per cui saltano fuori dei colori dal corpo della torcia, che sono un po' i colori principali del Brasile, della bandiera o comunque dello stato del Brasile. Fantastico. Per quanto riguarda la fiamma, quindi propriamente detto è una combustione, quindi c'è un problema di tenerla accesa. Un tempo chiaramente erano i combustibili più classici, l'olio, la pece, che venivano usati. Ormai da anni si usa il gas, in certi casi è il propilene, ma più facilmente può essere il metano e il butano, che però hanno un problema, sono abbastanza incolori, mentre io in certe situazioni, anche per esigenze di riprese televisive, magari ho bisogno che la fiamma si veda, perché se è troppo trasparente, troppo evanescente, allora sembra spenta. Se corro di giorno sotto il sole, sembra spenta. Allora ci sono degli escamotage che anche qui la chimica ci può offrire, perché alcune sostanze, quando vengono bruciate, si manifesta un colore. Allora, banalmente, se io voglio una fiamma più verde, perché è uno sfondo che mi aiuta a sostenere il verde, posso usare del rame, dei sali di rame. In altri casi posso usare il cloruro di potassio, e quindi è una fiamma quasi viola, molto utile per esempio in alcuni film. Oppure posso usare lo stronzio per avere una fiamma molto rossa, oppure ancora del litio per avere una fiamma carminio, molto elegante, molto molto particolare, e così via. Quindi a volte vengono ingaggiati dei chimici che riescono a far spruzzare queste sostanze mentre la fiamma brucia, e quindi creare degli effetti scenici molto molto importanti. Perfetto, anche oggi si è fatto scoprire una cosa assolutamente inattesa, non ci avevo davvero mai pensato. Un grazie ad Andrea Vico, queste sono le nostre scienziadi, l'appuntamento anche con te alla prossima puntata. Ciao Andrea. A presto. Ciao, ciao, a presto. E adesso è il momento di andare invece a scoprire quello che abbiamo imparato oggi. Oggi abbiamo imparato che la gara più famosa delle Olimpiadi, la maratona, alle Olimpiadi nell'antica Grecia non c'era. Oggi abbiamo imparato anche che sull'Olimpo c'era sempre la nebbia. Oggi abbiamo imparato che la medaglia d'oro della velocità negli animali non la vince il ghepardo, ma il falco pellegrino. Oggi abbiamo imparato anche che alle Olimpiadi antiche gareggiavano tutti nudi per essere sicuri che fossero maschi. Ma soprattutto abbiamo imparato oggi che per gli antichi greci l'importante non era partecipare, ma vincere. Questa è Terra in Vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio, un grazie, in assistenza a Massimiliano Lollis, alla parte tecnica Valeria Bernardi, a Paola Manduca che con noi ha scritto la puntata, un grazie a Telmo Pievani. A te. E radio24.it è il nostro sito da dove poter riascoltare la puntata, scaricare il podcast e trovare tutti i contributi speciali. L'appuntamento è alla prossima settimana con un'altra parola. Ciao! Io sono Zeus, dell'Olimpo il Signore. Lancio tuoni e fulmini a tutte le ore. Io sono Afrodite, dell'amor la signora. Se un uomo mi guarda, di me si innamora. Io sono Efesto, signore del fuoco. Vendo le armi, scusate se poco. Io sono Demetra, dea dell'abbondanza. Di mietere il grano, ne ho proprio abbastanza. Io sono Poseidone, padrone del mar, guardatevi bene dal farmi arrabbiare. Io sono Ermete, degli dei il messaggero, che Zeus mi fulmini se non dico il vero. Io sono Atena, dea della sapienza, di libri e cultura non posso star senza. Io sono Eolo, signore dei venti, a forza di soffiare mi è venuto un mal di denti. Io sono Apollo, son giovane e bello, mi guardo allo specchio, mi aggiusto un capello. Io sono Artemide, la dea della caccia, per cervi ed uccelli una vera minaccia. Io sono Dioniso, amante del vino, e se bevo troppo mi scappa un ruttino. Noi siamo gli dei, siamo belli ed immortali, siamo tanti, siamo forti, siamo eccezionali.